Azzakà, l'imposta coranica. Azzakà, l'imposta coranica, è il terzo pilastro dell'Islam. Dice Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, nel sublime e sapiente Corano. Eseguite l'adorazione rituale quotidiana, pagate l'imposta coranica e obbedite all'Apostolo, affinché vi venga usata misericordia. Annuncia a coloro che accumulano l'oro e l'argento invece di spendere queste loro ricchezze per la causa di Allah, che li attende un castigo doloroso. I proventi dell'imposta coranica devono essere utilizzati a beneficio dei poveri, dei bisognosi, degli esattori incaricati della raccolta dell'imposta, per coloro i cui cuori sono stati conciliati all'Islam, per la liberazione dei prigionieri, per i debitori inadempienti per motivi che non dipendono da loro fatto e colpa, per la causa di Allah, per il viandante. È un dovere il versamento dell'imposta coranica per i fini sopra indicati, imposto da Allah. E Allah è l'onnisciente, il sapiente. Preleva dalle loro sostanze l'imposta coranica, li renderai così puri e mondi. Benedicili. Abbiate fede in Allah e nel suo apostolo. Spendete prelevando da ciò che Allah vi ha elargito per il trionfo della sua causa. Coloro che tra voi avranno creduto e avranno speso per la causa di Allah riceveranno una grande ricompensa. E non pensino coloro che tesaurizzano i benefici loro elargiti dalla provvidenza divina che sia per loro un bene quello che fanno, anzi è per loro un male. Quello che avranno accumulato in questa vita sarà il loro abominio nel giorno della resurrezione. Allah è l'erede dei cieli e della terra. Egli è ben informato di quello che andate facendo. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, disse: Allah ha reso obbligatorio a tutti i musulmani con capacità contributiva di pagare un'imposta perché con i proventi di essa si provveda alla pubblica assistenza. Allah sarà molto severo nel giudicare e nel punire coloro che si sottraggono a quest'obbligo. Sono debitori dell'imposta coranica, zakah, tutti i musulmani, maschi e femmine, liberi, sani e adulti. Il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: se possiedi 200 dirham, su cui è trascorso un anno, devi pagare l'imposta coranica nella misura di 5 dirham. Sei esente dall'imposta coranica se non possiedi almeno 20 dinar, ma se possiedi 20 dinar e su di essi è trascorso un anno, devi pagare un'imposta coranica di mezzo dinar. Il debito di imposta coranica nasce con il possesso di 200 dirham oppure di 20 dinar, che sono il minimo imponibile. Il minimo imponibile si chiama annisab. Il dinar ha il valore di grammi 4,8 di oro. Il peso di una unità di misura del peso, detta mithqal. Il nisab dell'oro è pari al valore di 96 grammi di oro. Infatti, moltiplicando 4,8 il peso in oro di un dinar per 20, il numero dei dinar di cui è necessario il possesso per raggiungere il minimo imponibile, si ottiene il peso di 96 grammi di oro. L'imposta coranica di un mezzo dinar equivale a 2,4 grammi d'oro, e 2,4 grammi d'oro è esattamente il 2,50% di 96. I beni soggetti a imposta coranica sono l'oro, l'argento, la mercanzia e i gioielli nel caso di tesaurizzazione. Sono soggetti a imposta coranica, ma in misura diversa dal 2,50%, i prodotti agricoli, le miniere, il tesoro, il bestiame. Per i prodotti agricoli è dovuto a titolo di imposta coranica il decimo del valore se la coltura non richiede spese di irrigazione, mentre invece è un ventesimo se richiede spese di irrigazione. Per le miniere è dovuta un'imposta pari a un quinto del valore, solo se viene scoperta in un terreno sottoposto alla decima. Per il tesoro nascosto sottoterra è dovuta un'imposta pari al 10% del valore, tranne che si tratti di pietre preziose. Per il bestiame è stata elaborata dalla giurisprudenza islamica una tabella dettagliata di quanto dovuto in natura dai proprietari di mandrie e di greggi in rapporto alle specie di bestiame e al numero dei capi. Sono esenti dall'imposta le mandrie di meno di 6 cammelli e di 31 bovini e i greggi di pecore o di capre con meno di 41 capi. Il calcolo del nisab in Italia. In Italia il calcolo del nisab si effettua moltiplicando per 96 la quotazione dell'oro alla Borsa Valori di Milano nel giorno in cui spira l'anno da quando il cespite tassabile è entrato nel patrimonio. Ciò perché è il valore dell'oro a costituire la base di una valutazione per stabilire la soggettabilità all'imposta di un cespite patrimoniale. Se uno dei cespiti patrimoniali ha il valore uguale o superiore al nisab, il proprietario è tenuto al pagamento del 2,50% del valore di esso a titolo di imposta coranica.